Topic of our Dhamma talk now this late afternoon is Heidi is yawning, effort. And maybe with effort, if we feel tired on occasion, then we can overcome that tiredness. Quindi l'argomento del discorso di questa sera sarà lo sforzo, e quindi se ci troviamo a essere stanchi nella nostra pratica, forse con uno sforzo giusto, un maggiore sforzo, riusciamo a superare questa difficoltà. So, what we shall do is just briefly look at some of the imagery that the Buddha has used around effort, and then go on to define effort as given in the text, and then we will further take a quick look at the position of effort in the Abhidhamma, then to go on to the occurrence of effort in the practice. Quindi cominceremo con alcune immagini per illustrare, cioè utilizzate dal Buddha per illustrare questa facoltà mentale dello sforzo. Dopodiché, the definition. Poi la definiremo cos'è lo sforzo. Poi vedremo come lo sforzo viene descritto nella Abhidhamma. E infine vedremo come questo sforzo può essere sviluppato all'interno della nostra pratica. Yes. Now, the Samyutta Nikaya contains a very beautiful illustration. Namely, it assesses the mental factor of effort, known in the Pali scripture language as viriya, is comparable to using one's hands and feet in order to row a makeshift raft over water from a shore beset by danger to the other shore, which is safe and free from danger. Allora, c'è questa immagine che viene data nel Samyutta Nikaya di questo stato mentale dello sforzo o energia, che nella lingua pali è chiamata viriya, e l'immagine è quella di dello sforzo necessario, uno sforzo fatto da mani e piedi per poter trasportare una zattera costruita a mano da una riva all'altra di un fiume, e la riva di partenza è piena di pericoli e la riva la destinazione, diciamo, una riva sicura. And so please do notice in this imagery this going from one place to another. Quindi è la cosa importante in questa immagine, in questa metafora, il fatto che si vada da un luogo ad un altro. And so now that nicely ties in with the noble search, where we come from a place, let's say, where we've experienced or witnessed suffering in a very direct manner, and then from there we start searching for something else and we go towards this something else. E quindi si collega molto bene con quello che dicevamo riguardo alla nobile ricerca, diciamo, e laddove partiamo da una situazione di sofferenza e di disagio per cercare una via d'uscita, cercare qualcosa di meglio, e andiamo in quella direzione. Now, another imagery appears also in the Samyutta Nikaya, and there effort is compared to a beast of burden that moves towards security from bondage without turning back. Un'altra immagine che viene data sempre nel Samyutta Nikaya è quello di un animale di servizio, come può essere un bue, per dire, un asino, che si libera dalla sua schiavitù, dalle catene, appunto per andare verso una maggiore libertà. Now, for some of you, the notion of effort might not be all that clear. What is actually meant by this? How does this translate into our practice? And a definition from the Dhammasangani then at least helps us to get a bit closer to what is meant by effort. Quindi questa idea dello sforzo, questo concetto di sforzo, non è così chiaro per molti praticanti. Cosa si intende esattamente per sforzo e come questo può aiutarci nella nostra pratica? Allora, una descrizione che è data nel Dhammasangani può esserci di aiuto per comprendere meglio l'importanza di questo fattore mentale. No. For one thing, it's defined or explained as getting rid of lethargy. In a different way, it's explained as exerting oneself harder and harder. Quindi una definizione che viene data è quella del, liberarsi dalla letargia, uscire da uno stato letargico, diciamo. Un'altra definizione, un'altra descrizione di questo stato può essere quello del sforzarsi sempre di più, in modo sempre maggiore. And along that same line, endeavoring higher and higher, which means in one's meditation practice one reaches a certain point and that one does not content oneself with this and realizes there's still further to go. And un'altra immagine, definizione, è quella di voler puntare sempre più in alto, mirare sempre a qualcosa di più, il che significa non accontentarsi di un certo punto raggiunto nella pratica, ma voler andare sempre oltre, diciamo, sempre più in alto. Now, another way of speaking of effort is as not relinquishing the task. And that makes an awful lot of sense. At times we feel like giving up, and certainly effort is that mental quality that certainly then keeps going. Un'altra definizione è di uno stato che permette di non abbandonare il compito, e questo ha un certo senso nella pratica, perché ci troviamo spesso a voler rinunciare, abbandonare la pratica, ed è proprio questa qualità dello sforzo che fa sì che invece continuiamo ad andare avanti. This particular aspect has also been explained as not shirking one's responsibility. Responsibility to be mindful from moment to moment and to know the nature of the most predominant object. Un'altra definizione è quello del non evitare le proprie responsabilità. Responsabilità riguardo all'essere consapevole e al conoscere la natura dei fenomeni che si stanno osservando. When it comes to the Abhidhamma definition or the Visuddhimagga definition of of Viriya, then its characteristic is certainly given as forbearance in the face of difficulty. Per quanto riguarda la definizione data dall'Abhidhamma o dal Visuddhimagga, allora la qualità del forbearance in the face of difficulty. La caratteristica quindi di Viriya è quello del essere, del sopportare la situazione di fronte a una difficoltà. Forbearance è più essere, come si può dire in italiano, essere solidi, saldi, insomma, non trying to translate forbearance. Essere rigorosi, insomma, di fronte a una difficoltà. See, what happens is, from a practical point of view, when we observe a pain, when we first observe it, the mind is okay with it, and still has some vigor. But if the pain is lasting over a long period of time, then gradually the mind will tire, and it will wither, it will lose its strength. And it is at this point that effort comes in and then supports the mind. And hence, the function of effort is given as supporting. Perché all'inizio, prendiamo l'esempio di un dolore, allora all'inizio va bene, riusciamo a osservarlo abbastanza bene, però quando il dolore si protrae nel tempo, ecco che la mente si stanca, si allontana, si indebolisce, ecco che entra in gioco lo sforzo che ci permette appunto di sopportare il dolore, di stare con il dolore, e allora passiamo alla funzione, questo descrive la funzione dello sforzo, che è quello di sostenere la pratica e di sostenere gli stati mentali associati, collegati con lo sforzo. To support associated mental states such as mindfulness, such as concentration, faith, and whatever is necessary. E quindi quali sono gli stati mentali che vengono sostenuti dallo sforzo? Sono la consapevolezza, la concentrazione, la fede, fiducia, eccetera. So when effort or virya comes in, in the face of, or when facing some long-lasting pain, then the mind no longer withers, the mind no longer collapses, and hence non-collapse is given as its manifestation. E quindi quando questo virya è sostenuto dagli altri stati mentali positivi, come abbiamo detto, salutari, ecco che la mente di fronte a un dolore persistente non si prosciuga, non si allontana, non si indebolisce, ed ecco che la manifestazione di virya è data come il non collassare praticamente della mente. Now, the illustration that is given for this particular point is that of a house that is on the verge of collapse. And then one still wants to use the house a bit longer, and one then goes and supports the building with 4x4 beams. Quindi per per utilizzare un esempio riguardo a questa particolare funzione, questo particolare aspetto, potete immaginare una casa che sta per crollare. Allora uno cosa fa? La sostiene con delle assi ai lati per tenerla su, con delle travi. Scusate. Now, when it comes to the nearest cause for the arising of effort, two are given here, one being a sense of urgency, samvega in the Pali scriptural language, and the other one being anything that causes or arouses energy. Per quanto riguarda la causa prossima dell'energia, viene data come samvega, cioè il senso di urgenza, samvega nella lingua Pali, oppure qualunque cosa che possa creare energia, che possa dare energia. Now, in terms of effort's position in the Abhidhamma, it is classified as one of the pakinakas, namely occasionals. Occasional mental states that arise not together with all consciousness. On occasion yes, on other occasions maybe no. Per quanto riguarda la posizione di questo fattore mentale dello sforzo, energia, nell'Abhidhamma, è considerato uno stato mentale occasionale. Questo significa che non sorge con tutte le coscienze, ma solo occasionalmente, appunto. And suddenly those occasionals are mental states that are ethically variable. At times they can be wholesome, at other times they can also be unwholesome, depending on prevalent mental type of consciousness. E quindi questi cosiddetti stati mentali occasionali sono variabili, nel senso che dipendono, hanno un connotato etico, possono essere o salutari o non salutari, e questo a seconda degli stati mentali associati nella degli stati mentali che sono presenti nella coscienza associata. No. Effort does arise together with consciousness rooted in greed and hatred and certain delusion. Perché lo sforzo può anche sorgere associata ad una coscienza che contiene la brama, l'illusione e l'avversione. Yes, but it can also arise together with a sense of your wholesome consciousness. Però può anche sorgere con associata ad una coscienza invece nell'ambito della nella sfera sensoriale positiva, salutare. As well as that with a sense of your resultant consciousness, functional consciousness, all the jhanas and the four noble paths and fruits. Mm, così come la coscienza, quindi sensoriale, resultant, come risultante, coscienza risultante, queste sono classificazioni dell'Abhidhamma. And then functional, poi la coscienza funzionale, and then poi all the jhanas, la coscienza collegata con i jhana e la coscienza collegata con i quattro sentieri di illuminazione. Yes, okay. Il primo è le sfere sensoriali, no? Yeah, that's correct. Wholesome. Wholesome, yes. Sì. Quindi le sfere sensoriali salutari. Now, the Venerable Sāri Upanita of Phutna Burma has described the gist of effort of mindfulness and concentration with regard to mental defilements. And he says that effort is the mental factor that distances or keeps away the mental defilements, that blocks certain unwholesomeness. Quindi il Venerabile Upandita, maestro birmano, ha fatto un collegamento tra questi tre fattori mentali, no, dello sforzo, consapevolezza e concentrazione, in relazione ai difetti mentali. Allora, viriya, cioè lo sforzo, ha questa capacità di tenere lontani i difetti mentali. No, when it comes to the work of mindfulness, as we've seen already among the two manifestations of mindfulness, it protects the mind against the arising of mental defilements. Per quanto riguarda la consapevolezza, la funzione della consapevolezza ha questa capacità di proteggere la mente dai difetti mentali. And when you think of concentration also is playing a certain role with regard to the mental defilements, and here the concentration suppresses the mental defilements. E anche la concentrazione ha un ruolo in questo contesto, e il ruolo della concentrazione è quello di reprimere i difetti mentali. So, with this then, the three mental factors of effort, mindfulness and concentration are working in slightly different ways. E quindi da questo punto di vista questi tre fattori dello sforzo, della consapevolezza e della concentrazione lavorano in modi leggermente diversi. No. Effort comes up in the text in various forms, And one of those forms is as a faculty of energy. Quindi lo sforzo nei testi appare in diverse forme, diciamo, viene menzionato in diversi modi. Uno di questi modi è lo sforzo visto come una forma di energia. Come? Forma di energia. Now, here, a short discourse from the Samyutta Nikaya, here a noble disciple dwells with noble energy aroused for the abandoning of unwholesome states and the acquisition of wholesome states. Allora, nel Samyutta Nikaya si dice, qui dimora un meditante con lo sviluppando l'energia che gli permette di superare gli stati mentali negativi e di fare sorgere quelli positivi o quelli salutari. Now this definition is probably the most simple definition of what effort is doing. E questa forse è la definizione più semplice che spiega quello che sta facendo, quello che fa lo sforzo, la funzione dello sforzo. And in this context that the discourse or the passage goes on to say one is strong, firm in exertion, not shirking the responsibility of cultivating wholesome states. E poi continua questo passaggio del Samyutta Nikaya dicendo che qui la persona diventa forte, determinato e non evita, diciamo, la responsabilità del the responsibility of, did you say? Shirking one's responsibility towards the development of wholesome mental states. Sì, quindi questa responsabilità che ha verso lo sviluppo degli stati mentali salutari. Now, another form in which the effort is being presented is as the four supreme efforts, Samapadana. Un altro modo in cui viene descritto o definito questo sforzo, un'altra forma che prende, diciamo, lo sforzo, è lo sforzo chiamato o suddiviso in quattro sforzi supremi. Yes. Supreme. Right, that's correct. And certainly among those four, the first one is the effort made to prevent the arising of so far unarisen unwholesome states. Allora, il primo è lo sforzo per impedire che dei difetti mentali che non sono ancora sorti sorgano. So the mind, let us say, is for the time being in a pure state, and then some unwholesome mental state wants to come in, and effort prevents it from arising. Quindi la mente ha già acquisito una certa purezza e ipotizziamo che ci sia uno stato mentale negativo che vuole entrare nella mente ed è lo sforzo che fa sì che questa questo contaminante mentale, diciamo, resti fuori. That's it. In this is correct. Sì, è corretto. No. And so keep this in mind that effort is performing this function of preventing an unarisen unwholesome mental state from arising. Quindi tenete a mente questa funzione dello sforzo che fa in modo che uno stato mentale che non è ancora sorto non sorga, negativo ovviamente. And this then applying to our own practice is that every time some unwholesome state wants to come in, we make this extra effort to keep it away. Mm. E questo riferito alla nostra pratica significa che ogni volta che c'è un inquinante mentale, uno stato mentale non salutare che vuole infilarsi, diciamo, noi facciamo uno sforzo per non farlo entrare nella nostra mente. However, it would be unrealistic to assume that one will be successful in preventing unarisen unwholesome states all the time. Sarebbe però irrealistico pensare che uno riesca a tener fuori questi stati negativi continuamente, sempre. And What this satnya then means is that on occasion unwholesome states will make satnya their appearance in the mind. Mm-hmm. And at that point, then effort again needs to come in, and satnya this time to then abandon the arisen unwholesome state. So earlier on, Paramita said prevention, now it's cure. Però allora ogni tanto ci sarà qualche stato mentale non salutare che riuscirà a trovare modo di entrare nella mente. A questo punto entra in gioco lo sforzo per eliminare lo stato mentale negativo che è già sorto nella mente. Quindi prima Paramita ha detto che il primo tipo di sforzo era la prevenzione, questa è la cura. No, the second... Or the last two applications of effort are more around certain wholesome states. So if a wholesome state has not yet arisen, such as the enlightenment factors, then one makes an effort towards their development or its development. Mm. Quindi questo era il secondo fattore, diciamo. Invece gli ultimi due, il terzo e il quarto, si riferiscono più a fattori mentali salutari, positivi. Allora, il terzo fa sì che lo sforzo viene utilizzato per far sorgere quegli stati mentali salutari che non sono ancora sorti nella mente. Scusate? Ah sì, come per esempio i fattori di illuminazione. Yes. And so, for those of you who don't know yet, there's seven enlightenment factors, the first one being mindfulness itself, and then investigation of states, and then effort. Per coloro che non conoscono questi fattori di illuminazione, sono sette, quindi il primo è la consapevolezza, il secondo è l'investigazione dei fenomeni o del Dhamma, il terzo è lo sforzo. Joy. Poi c'è la gioia, la tranquillità, and satnya, then concentration. Poi c'è la concentrazione, and the last one is e l'ultimo equanimità. Yeah. No. Can we keep that for later on? Magari la tieni per la fine, ok? Se no perde il filo. No, the last form of effort then comes as the effort to maintain those wholesome mental states which have already arisen. Quindi, such as the enlightenment factors. Il quarto tipo di sforzo è lo sforzo necessario per mantenere nella mente gli stati mentali positivi, salutari, che sono già sorti, come per esempio i sette fattori di illuminazione che abbiamo menzionato. And or else, let me see, yeah, that's... And those wholesome states that have arisen, one then tries to bring to further growth and to further development. E quindi questi stati mentali salutari che sono già sorti, la persona cerca di svilupparli ancora di più, portarli a maturazione. Now, how do we... Or how could we experience effort in our own practice? Come possiamo fare esperienza dello sforzo nella nostra pratica? One aspect is patient endurance of difficulties such as itches arising, such as certain body and mind being restless, various movements of the mind, and patiently enduring pains, hardness, pressure, heat, stiffness in the back, and also patiently enduring the hindrances. Quindi un modo per sviluppare questo sforzo o energia è di sopportare pazientemente tutti quegli stati difficili che sorgono durante la meditazione, per esempio dei pruriti, delle tensioni, dei movimenti nella mente, l'irrequietezza, il dolore, la rigidità nella schiena, oppure tutti gli ostacoli, no, i cinque ostacoli di cui abbiamo parlato. It's strange because we never have any of these. Now, another difficulty that satna comes up is satna that at times one's satna insight, knowledge, so one's understanding, wisdom undergoes changes. It goes up, it goes down. And this may happen many times. And so effort satna then is satna needed to endure those roller coaster experiences. E un'altra difficoltà che si può avere nella pratica è che ciò che si conosce, cioè gli insights, no? le conoscenze intuitive, non sono stabili, vanno su e giù, ci sono, non ci sono, sono un po' variabili, e quindi serve una certa lo spirito di sopportazione, una certa pazienza per stare con questo. Ha chiamato roller coaster queste montagne russe, diciamo, no? Okay. Now, furthermore, will surely have experienced on occasion how at first the mind is quite alert, and suddenly then sooner or later it goes into a semi-conscious state. Afterwards, one then needs to make a big effort to keep the mind alert. Avete sicuramente fatto esperienza di una situazione in cui la mente inizialmente molto sveglia e vigile, poi improvvisamente cade in un stato di semicoscienza e di torpore. Ecco che di nuovo è necessario lo sforzo per ritornare a svegliare la mente. With this drowsiness that on occasion comes in, oftentimes it goes along a slouching or slumping of one's satna posture. So then effort, physical effort needs to be made to straighten one's posture. E a volte quando viene questo stato di torpore nella mente è accompagnato anche da una postura, come dire, un po' accovacciata, un po' troppo rilassata. Ecco che è necessario anche qui uno sforzo per raddrizzarsi, in questo caso uno sforzo fisico per mantenere la posizione. Now, effort may also manifest when it's flowing and suddenly there's lots of energy available. Now, a case or an example for this. A retreatant at times might find how he or she is having lots of energy and suddenly then can sit for much longer than the usual hour, maybe an hour and a half or even 2 hours or more. A volte lo sforzo si può manifestare come una capacità, come se il meditante avesse una grande energia, una forte, come dire, risorsa energetica, e quindi capita che si trova a riuscire a meditare per dei periodi più lunghi, magari un'ora e mezzo, spinto proprio da questa forte energia. Now, further aspect of effort, could a strong effort, could be that someone goes to bed and because there's so much energy, one cannot fall asleep right away. Un altro esempio di questo eccesso di energia è il fatto che può capitare di andare a dormire dopo una giornata di pratica e non riuscire a dormire proprio perché c'è troppa energia. No. Or the last session of the day tends to be oftentimes a difficult one because there's a tendency to fall asleep. And that being the case, one then needs to put in much effort to battle that certain sleepiness. Oppure spesso l'ultima sessione della giornata è quella più difficile, perché per molti meditanti subentra appunto uno stato di sonnolenza. Ecco che anche qui è necessario lo sforzo per combattere contro questo stato di torpore. And even if one does not certainly succeed to overwhelm or to overcome the sleepiness, it doesn't matter. The effort made is what is important. Mm. If one keeps doing this every time, every night, suddenly sitting, then after maybe a week or maybe shorter than this, longer than this, the mind then is more energetic, or by that time is more energetic, and suddenly then the last sitting of the day is not necessarily a problem anymore. E quindi anche se magari uno non riesce subito a superare questo stato di sonnolenza riferito all'ultima sessione della giornata, non ha importanza, perché la cosa importante è fare lo sforzo per stare svegli. Quindi il fatto che ripetutamente si metta questo sforzo nella pratica fa sì che dopo un certo periodo, magari dopo una settimana, l'energia è maggiore e più, sarà più facile stare svegli fino alla fine della giornata. Now, there's a few practical aspects that relate to effort. Namely, when there's some predominant object of observation, then our observing mind needs to be aimed towards that object, and satna also needs to go there, needs to be propelled there. Now, it may happen that because of poor aiming, the observing mind then overshoots satna the object. Or in other cases, it could be that it falls short of the object of observation. Alcuni aspetti pratici riferiti all'energia o allo sforzo sono che quando uno ha un oggetto, sta osservando un fenomeno o un oggetto, deve mirare verso l'oggetto e poi come spingere la mente verso quell'oggetto per poterlo conoscere, osservare. Allora potrebbe esserci il caso di una troppa energia che fa sì che la mente va oltre l'oggetto, non riesce a puntarlo praticamente, ad arrivarci. Oppure una scarsa energia che fa sì che la mente non riesca a raggiungere l'oggetto da osservare. So, a near, or what's the word for it? Vivid illustration for this would be during a meal. Let's say there's a piece of potato, and then you want to put it into your mouth. Well, first you have to take your fork and then aim the fork towards the potato, and then actually pierce the important potato, push it, move it in that direction and then pierce it. Quindi per fare un esempio pratico, immaginate di essere a tavola, dovete mangiare una patata che avete sul piatto, avete la forchetta per poter portare la patata alla bocca, la forchetta deve mirare alla patata e anche fare un certo sforzo per infilzarsi nella patata. Now, as mentioned already yesterday, the effort through trial and error will have to find just the right amount of effort, the balanced effort. So at times, if we put in too much effort, then we'll get restless. At other times, when we're lacking effort, this results in sleepiness. E come abbiamo già detto ieri, è necessario trovare la giusta misura, il giusto equilibrio nello sforzo che mettiamo nella pratica, e questo viene da un esercizio di prova ed errore. E vedremo che se mettiamo troppo sforzo nella pratica, questo risulterà irrequietezza nella mente, così come se mettiamo troppo poco sforzo nella pratica, questo risulterà in uno stato di torpore. No. The Venerable Sayadaw Pandita Bhimamsa of Burma has coined, you know, this term, effortful effort and effortless effort. And so, both of these certain terms do make a lot of sense. For a long time, one's effort will be effortful effort. One really does need to put in some energy. But at a later point, certainly in the practice, it so happens that energy comes flowing quite naturally, and at that certain point, the effort becomes effortless effort. And so then at that point, retreatants are really pleased. Sayadaw Pandita ha coniato questo nuovo termine, si dice così, ha inventato due nuovi termini, anzi, per quanto riguarda lo sforzo. Lo sforzo sforzato, e lo sforzo senza sforzo. So che in italiano non rende tanto. E questo, per chi ne ha avuto esperienza, ha un senso, perché inizialmente il praticante deve mettere molta energia per potersi sforzare nella pratica. Quindi, però con l'andar del tempo questo sforzo diventa senza sforzo, cioè nel senso che va in maniera molto spontanea e molto naturale, non è necessaria una grande energia per mantenere lo sforzo nella pratica. E quando il meditante arriva a questo punto è molto contento. But it takes a while to get there. Però, per arrivarci ci vuole un po' di tempo. No, there is a passage, or the text suddenly speak of a certain relationship between the amount of effort that one puts into one's practice, that one invests into one's practice, and what one gets out of the practice. And the relationship is as follows. Quindi c'è una certa relazione tra lo sforzo che si investe nella propria pratica e i risultati che si ricevono dovuti a questo sforzo. No. When we put in very little effort into our practice, well, the benefits that we will get from it will also be minor. Quindi quando lo sforzo che mettiamo nella pratica è minimo, anche i benefici che ne ricaveremo saranno minimi. When we put in a moderate amount of effort into our practice throughout the day, day after day, then the results that we can expect will be of a moderate nature. And when we give ourselves wholeheartedly, fully, we make maximum but still balanced effort, then we will gain maximum benefits. Quindi se mettiamo uno sforzo moderato nella nostra pratica, i benefici che ne ricaveremo saranno moderati. Se invece ci dedichiamo totalmente alla nostra pratica in maniera totale, completa, piena, allora anche ciò che ne ricaveremo, i benefici che riceveremo dalla pratica, saranno al massimo. So, whether we gain little or just a moderate amount in terms of benefits, or maximum amount of benefits, that in the end is certainly with us. Oh, I didn't get this one. Oh, I'm saying whether we gain very little from, gain little benefits or moderate benefits or a lot of benefits, that in the end depends on us. Ah, depends on us. Quindi se avremo dei benefici minimi o moderati o i massimi benefici, beh, questo dipenderà da noi. No. The last sort of major aspect that we shall look at is the development of effort. L'ultimo aspetto che analizzeremo è lo sviluppo dello sforzo. And various points are being mentioned how to develop effort. Quindi vengono menzionati diversi modi, diversi punti su come sviluppare questo sforzo. No. Dhammapada, verse number 23, says, those who always make a firm effort and meditate continuously, these wise ones will experience Nibbana, the supreme freedom from bondage. Allora, nel Dhammapada, nel verso 23, si dice, coloro che applicheranno un forte sforzo e mediteranno con continuità potranno fare l'esperienza del Nibbana, cioè la piena liberazione dalle catene, dalla schiavitù del samsara, ovviamente. No. There's a discourse in the Majjhima Nikaya, the middle-length discourses of Fatna, the Buddha, that speaks of mentions the four essences of the Dhamma, in Pali known as Dhammudesa. Nel Majjhima Nikaya c'è un sutta che parla proprio delle quattro essenze del Dhamma. E poi ha detto il termine in Pali. And those four essences of the Dhamma, if we reflect on them, might suddenly then move us towards exerting ourselves more. Quindi se riflettiamo su queste quattro essenze del Dhamma, o fattori essenziali, diciamo, del Dhamma, questo può aiutarci a sforzarci ancora di più. The first one among those four is life in any world is unstable. La prima riflessione, la prima essenza del Dhamma, diciamo, è pensare che qualsiasi vita in qualsiasi mondo non è stabile. In any world, did you say? Yes, that's correct. Now, life in any world is unstable in the sense that we are, or that life, moment by moment, is moving towards death. E quindi questa instabilità della vita in qualsiasi mondo significa che momento dopo momento la nostra vita sta andando verso la morte. So we're not getting any younger, we're not getting any stronger, but rather the opposite is the case. Quindi non stiamo diventando né più giovani né più forti, ma piuttosto il contrario. And suddenly realizing that life is unstable and death could occur at any point, one then may want to exert good effort to make good use of one's time to gain the Dhamma. E quindi questa consapevolezza che la vita è instabile e che si potrebbe morire in qualsiasi momento fa sì che la persona voglia usare bene il suo tempo e dedicarsi con un certo sforzo, diciamo, alla pratica. Now, the second essence of the Dhamma is as follows, namely, life in any world has no shelter and no protector. By world is meant the human world, as well as other worlds and realms of celestial beings and so on. Uh-huh. E quindi la seconda essenza del Dhamma è la consapevolezza, la riflessione che qualsiasi vita, in qualsiasi mondo, e per mondo si intende il livello umano, così come altri livelli di esistenza, non ha protezione, è in balia dei pericoli, non c'è riparo. Now, when we fall sick, then in the end we will have to experience all the pains and aches and the mental suffering that comes along with that sickness ourselves. Our parents cannot take that burden away from us. On the other hand, if our parents fall sick, then again, they will experience all the suffering that goes along with illness, and the children cannot take that burden away from them. Quindi quando ci ammaliamo, quando dobbiamo affrontare una malattia e la sofferenza che accompagna questa malattia, beh, il peso di questa pena, diciamo, ricade solo su di noi, la possiamo solo sopportare noi, non c'è nessun altro che la può togliere, neanche i nostri genitori possono toglierci la sofferenza legata alla malattia. Allo stesso modo, se sono i genitori ad ammalarsi, i figli non possono fare nulla per alleviare, o meglio, non possono togliere la sofferenza dai genitori. No. E assumerla loro, insomma. And the third essence of the Dhamma is that life in any world has nothing of its own. Nothing of its own. Doesn't possess anything. Yeah. One has to leave all and pass on according to one's actions. La terza essenza del Dhamma è la riflessione, la consapevolezza che qualsiasi vita in qualsiasi mondo non ha nulla di suo, non possiede nulla e quindi dovrà lasciare tutto ciò che possiede. No, what this means is, and that if one possesses property, so land, or a building, or one possesses material items, movable items, or one possesses certain skills, when the time of death comes, one has to leave all of those behind. Questo significa che se una persona possiede dei terreni, degli immobili o dei beni materiali o anche delle abilità, al momento della morte deve lasciare tutto indietro. And the only thing that we can really take along to the next existence are the fruits of our actions. L'unica cosa che possiamo portare con noi nella nostra esistenza successiva sono i frutti delle nostre azioni. Wholesome or unwholesome. Che si siano salutari o non salutari. Now, the last and the fourth essence of the Dhamma is life in any world is incomplete, insatiate, the slave of craving. La quarta e ultima di queste essenze del Dhamma ci dice che qualsiasi vita in qualsiasi mondo è incompleta, insaziabile, è schiava della brama, del desiderio. And suddenly here references suddenly being made to our human nature of craving for more and more and more, or if we get something, then we might start craving for something else. E qui si fa riferimento alla nostra natura umana, che è sempre alla ricerca di qualcosa, sempre insoddisfatta, anche quando ottiene qualcosa vuole sempre qualcosa di meglio, di diverso. So the example given here is that of someone who drinks salty ocean water. The more one drinks, the more one will be thirsty. E qui l'esempio che si dà è quello di una persona che beve acqua salata, come l'acqua dell'oceano, del mare. Più beve, pensando di saziare la sete, e più invece avrà sete. No. When it comes to effort, the effort, as we've seen when looking at its position in the Abhidhamma, could be wholesome, could be unwholesome. So, for instance, a robber will need to make or put in some effort to succeed with the robbery. So that's then effort towards something unwholesome. And then we have effort towards something wholesome. And hence, certainly the passage from the Samyutta Nikaya states that just as whatever strenuous deeds are done, they're all done based upon the earth, established on the earth. So too, our effort needs to be based upon virtue, needs to be established upon virtue. Dunque, nell'Abhidhamma si dice che lo sforzo può essere positivo o negativo, salutare o non salutare. L'esempio di uno sforzo non salutare può essere quello di un rapinatore. Ovviamente ci vuole un certo sforzo per rapinare una banca, però non è sicuramente un'azione salutare. Viceversa, il Samyutta Nikaya ci dà un'altra illustrazione, un altro esempio invece di uno sforzo positivo e salutare, e dice, così come un... Just as whatever strenuous deeds are done, are all done based upon the earth... What does it mean, strenuous deeds? All the actions one does. When does the standing on the earth. Ah, ok. Quindi così come qualsiasi azione che venga fatta da un essere umano è fatto basato sulla terra, nel senso che noi siamo sempre comunque a contatto con la terra. So likewise, the effort that needs to be based upon virtue, based on sila. Allo stesso modo, lo sforzo che noi compiamo deve essere basato sulla virtù, cioè su sila, la moralità. So the effort that we put forth in our meditation practice, very much so, it needs to be based on virtue, on sila. Quindi lo sforzo che noi mettiamo nella nostra pratica deve essere basata su questa virtù, su questa sila, questi valori etici, diciamo. Now, there's a different discourse in the Majjhima Nikaya, the so-called Cetokhila Sutta, that Satnadin speaks of entertaining doubt in the teacher, namely the Buddha, the Dhamma, the Sangha, the training, and that then has certain consequences. Allora c'è un altro sutta nel Cetokhila Nikaya, did you say? Majjhima. Nel Majjhima Nikaya, in cui si parla del dubbio, yes. No? Avere dubbio nel Buddha, nel Dhamma, nel Sangha e negli addestramenti, allora tutto questo porterà, what does this lead it to? Will lead to a certain consequence. Sì, ecco, adesso spiega a quali conseguenze porterà nutrire questi dubbi nella mente. And so, when the mind is certainly filled with skeptical doubt, then once the discourse says, then one's mind does not incline to ardor, to devotion, to perseverance and striving. So it doesn't incline towards making effort. E quindi in questo sutta si dice quando la mente è piena di questi dubbi, allora la mente non è incline verso, cioè non si dirige verso l'ardore, la devozione, l'impegno nella pratica. Quindi in altre parole, la mente non si sforza. So clearly this certain hindrance of the skeptical doubt is draining our mental energy and draining our willingness to exert ourselves. E quindi è come se questo ostacolo del dubbio scettico ci prosciugasse della nostra energia, ci togliesse la possibilità di sforzarci. Now, there's furthermore the Chanki Sutta, where the place of the supreme effort is suddenly being highlighted. C'è un altro sutta ancora dove viene sottolineata l'importanza di questo sforzo supremo. When a person learns and appreciates the Dhamma, the person then gets interested. Quando una persona impara e apprezza il Dhamma, allora diventa interessato. And gets interested in putting the Dhamma to practice. E diventa interessato a mettere in pratica il Dhamma. And then, being interested, one naturally makes an effort. E poiché è interessato nel Dhamma, allora ovviamente metterà uno sforzo. And so makes an effort to in weighing the Dhamma from various angles. E quindi metterà uno sforzo nell'applicare il Dhamma da diverse angolazioni. And so this weighing then leads the person to meditative striving. E questo porterà ad uno, come dire, uno sforzo meditativo, a un impegno meditativo. And such an event then will give an opportunity to realize certainly the ultimate truth. E questo poi di conseguenza darà l'opportunità di realizzare la verità ultima. So, striving it here, padana in Pali, is part of this certain sequence. So if some initial appreciation is there, some learning about the Dhamma is there, then it's likely to lead a person on to the realization of the Dhamma, if one keeps at it. E quindi c'è un po' viene delineato un po' tutto questo processo, no? Queste fasi. Da questo interesse iniziale nel Dhamma, la persona poi metterà il giusto sforzo e infine raggiungerà alla realizzazione del Dhamma, prima o poi. Now, effort is sometimes also spoken of as atapa, meaning ardent effort. A volte lo sforzo è chiamato atapa, che vuol dire uno sforzo ardente, pieno di ardore. And that ardent effort is not in the sense of exposing oneself to ascetic practices like being close to, sitting close to a fire and thinking that in this way one can extinguish the mental defilements. Quindi questo sforzo ardente non è una pratica ascetica che può far pensare che uno sedendosi davanti a un fuoco, per esempio, questo possa estinguere i difetti mentali. But rather, atapa is satna defined as satna the effort that burns up and consumes the mental defilements. Ma piuttosto atapa è riferito a quello sforzo che brucia e consuma quindi i difetti mentali. No. Let us conclude today's Satna Dhamma talk on effort with a Dhammapada verse, namely 112, that goes as follows. Quindi concludiamo il discorso di questa sera con un verso del Dhammapada, è precisamente il verso 112, che è il seguente. Better than 100 years in the life of a person who is idle and inactive is a single day in the life of one who makes a zealous and strenuous effort. Quindi, piuttosto che mille giorni nella vita di una persona pigra e che non si sforza, è meglio un giorno nella vita di una persona che invece si sforza e mette molto impegno e ardore. In the practice of Samatha meditation and Vipassana meditation. Nella pratica della meditazione Samatha e Vipassana. So, with this, then allow me to conclude further, wishing that we all put in a good amount of effort, but always making sure that this effort is not excessive, that it's balanced effort. Allora concludo augurando a tutti di poter mettere uno sforzo nella propria pratica, ma che questo sforzo sia giusto e che sia equilibrato. Well, and that's it. Sadhu, sadhu, sadhu. No, Ilaria, what was your question? What's that? You already answered. Oh, okay, good. Anything else? C'è qualcos'altro? Però si riferisce al primo discorso. Volevo capire che differenza c'è tra il vichara che grotta l'oggetto, che sta sull'oggetto, e la consapevolezza che affonda dentro. So the difference between vichara that rubs against the object, yes, in a right. way, and penetrating the object, and the mindfulness that penetrates the object. The mindfulness penetrating the object. Mm-hmm. Yeah. So he wants to know the difference between these two. Oh, rubbing is just. How do you recognize? So now rubbing is sadhya, like here you've got this ball, and sadhya the mind is rubbing the surface of the ball of the object. Quindi è come se tu avessi questa campana e la mente sfrega solo la superficie di questo oggetto. Now, whereas in the case of mindfulness it's supposed to penetrate, to sink into the object. Invece la consapevolezza dovrebbe entrare nell'oggetto. I know. Some of these differences between various mental states are pretty fine. Le differenze tra questi stati mentali a volte sono molto sottili. Ma nessuno dei due conosce. But none of the two knows the object. That's correct. È giusto. È così. It's the mental factor of knowing, of wisdom that knows. È il fattore mentale della saggezza che conosce. Ah no. Each factor performs its function. Ogni fattore mentale ha una sua funzione. The vichara was when we watch, for example, a very interesting film. You stay with the object very close. Yes, that's a good example, indeed. Yeah. Sì, quindi vichara, per esempio, è presente come fattore mentale quando guardiamo anche un film molto interessante. Quindi noi siamo, la mente è appiccicata, diciamo, al suo oggetto. Yeah. Whereas vitaka, initial application of the mind, would be when watches the movie for a little bit, gets distracted, and takes interest in other things, takes another second look at that movie. So it's not continuous. L'altro fattore invece vitaka è quando la mente, per esempio nell'esempio del film, guarda il film per un certo tempo, però poi si distrae e guarda qualcos'altro. Perché non è così interessato, quindi vitaka è più la mente che mira verso un determinato oggetto. Quindi sono alternativi, se c'è, se c'è vichara non c'è mindfulness, viceversa, oppure possono coesistere? No. Vitakka e vichara, tu... Non parlavo di vitakka, parlavo di vichara. Sempre in relazione alla consapevolezza. Se vichara sta sulla superficie e mindfulness entra dentro, sono alternativi oppure possono coesistere? Can they be both be present, vichara and mindfulness? Well, or are they alternative? It's either one or the other. With vichara, your mind is at first rubbing the object, and then with mindfulness one goes even deeper into the object. No, con vichara la mente strofina l'oggetto, poi è solo con la consapevolezza che entra, la mente entra nell'oggetto. So if there's one, you don't have the other. You can say that. Sì, si può dire così. No. Okay, maybe one last certain point. Yes, Claudia? And then there's one here. A very practical question. If the last meditation is very energizing, then you can think after that. Ordinary, then you keep on, while you're lying in bed, you keep observing your rising and falling. No, you make good use of your time. Claudia chiede se uno ha molta energia dopo l'ultima meditazione e non riesce a dormire, cosa fa? Dice, beh, continua a osservare, l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome, quindi usi bene il tuo tempo. And then sooner or later the mind will get tired and then you probably will fall asleep. Prima o poi la mente si stanca e poi ti addormenterai. Okay, let's hear your last question. I just wonder, you point out the necessity of effort, but I wonder if it's not also necessary to relax and not to put this strain on yourself. You know, to take a dialectical approach. Allora chiede se ha dato molta importanza a questo fattore dello sforzo, ma se non è altrettanto importante qualche volta il rilassamento, quindi che ci sia una specie di dialettica tra questi due aspetti per non mettere troppo, come dire, strain, troppa tensione nella mente. So, in general, you do want to make some good and continuous effort. That's spoken in general. But the Venerable Sadhu Pandita Bhimamsa of Burma speaks of one particular situation, namely around a pain. When a retreatant observes a long-lasting and intense pain, and pain is quite suddenly quite challenging. So at first, one's mindfulness goes right into the center of the pain. However, the mind cannot take it for too long. And at that point, then Sadhu Pandita recommends as to apply a second strategy, namely what he calls the Giriya strategy. So you pull back. You take your attention a bit, you withdraw your attention from that intense pain, you give your own mind some room, some space to regain strength. It's not that you stop observing it, you keep observing it, but from a distance. So not so close, not so meticulous. And then, when your mind has regained some strength, then you go back into the pain. You observe it for a little bit. After a while, you take it back and you withdraw your attention a little bit from the pain, and so on. If that second approach also doesn't work, then simply just ignore the pain and focus your attention on some other object. While observing some other object, like the rising and falling movement of the abdomen, then it could very well be that this sudden first pain on its own will subside. So there's at certain points indeed, when we overdo it, when our effort becomes sudden excessive, we get totally worn out, then it's good to give oneself some space. Quindi in un senso generale dovremmo sempre mettere sforzo nella nostra pratica, però anche Upandita suggerisce alcune strategie, per esempio quando il dolore è troppo forte, allora uno inizialmente sta col dolore per quanto più possibile, ma se si accorge di essere troppo teso e che non sta arrivando da nessuna parte, il dolore è troppo intenso, allora può allontanarsi e guardare il dolore da una certa distanza, finché la mente poi non guadagna ancora un pochino di energia e poi può tornare ad osservare il dolore. Se non funziona neanche questa seconda strategia, perché il dolore è troppo intenso, quindi la mente diventa tesa, allora si può ignorare completamente questo oggetto, quindi il dolore, e portare l'attenzione su un altro oggetto, per esempio sull'addome. E in questo caso spesso succede che il dolore iniziale poi sparisce. E quindi ci sono dei casi nella pratica in cui effettivamente lo sforzo va un pochino alternato con una mente più rilassata. And indeed, one can describe the meditation process as being a process of gradually finding the just the right amount of effort in the observation of whatever predominant object comes along. It takes a while, you can't take it for granted. Effettivamente la pratica meditativa può essere descritta proprio come questo processo del trovare la giusta misura riguardo allo sforzo necessario per poter osservare bene un oggetto. Però viene con l'esercizio, non è una cosa scontata. Ok. Does this answer your question? It does. Okay. So maybe this much for tonight, and then the next demo talk will be, I suppose, tomorrow.